Precipizio d'altrui morte saria, raddoppia in me il vigor. Mostro, ove sei? Ti sfido, esci, paventi uscirmi a fronte. A te la vita lascio, né dell'orrido teschio ornar pretendo, né dell'irsute cuoia i miei trionfi. L'acque mi addita, o questo orribil speco di teco vile io struggerò, e rapina farò di lor. Prigioniero, chi parla? O a fianco il brando, nell'insano tuo dir, scomenta Orlando. Qui donde uscir non scorgo, assi orgogliosi, intendo il muto favellar del vostro orrore. Son tradito, il vedo, il so, ma il destino non cederà, ma il destino non cederà, non cederà. Tu resselci cedete, in vano resistete alla scossa del mio braccio possente. Un marmo già divelto, in certa luce nella cupa spelonca ora traluce. Ingratissima Angelica, il mio cuore presa allena maggior da sdegni suoi, giusto furor traspira. Uscirò in fila ed il tuo nuovo amore calpesterò tutto dispetto e dira. All'estrema mia possa altro sasso giacere, aperto è il passo. Esce da tua prigione, Alcina, Orlando, dell'infame tuo regno a far scempio crudele. E memorando